magia, ma è magia, resa resa, meraviglia, ma è vegana sa, tra divana sa, mujhko teri chahat ne basa diya. मिलूं मैं मेरे साथिया जिया।